in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani che oggi, come potete immaginare, si concentrano molto su quello che sta succedendo a Bruxelles. Naturalmente la cronaca poi ci darà ulteriori informazioni. Cominciamo però dal Sole 24 Ore perché c'è un'inchiesta che apre il giornale, un'inchiesta di Claudio Gatti, come avete sentito accennato anche nel GR, è un'inchiesta che riguarda il business dell'immigrazione illegale, ma che naturalmente ha dei risvolti anche perché sappiamo che è uno dei tanti business illegali che alimentano il terrorismo. L'inchiesta si intitola Il dottore, il sudanese, il siriano, i boss di un traffico di uomini da 3 miliardi, le rotte e i flussi finanziari. Questo è un lavoro che naturalmente Claudio Gatti, che per il Sole 24 Ore ha fatto già importantissime inchieste in passato, aveva iniziato molto prima degli attentati del 13 novembre, ma che adesso appunto assume anche nuovi significati. Trovate poi tutto alle pagine 4 e 5 e il richiamo è di fatto l'apertura del Sole 24 Ore di oggi, ma ci sono moltissimi altri approfondimenti sul Sole 24 Ore, l'analisi per esempio di Vito Lops sul fatto che l'ISIS non sia l'unica incertezza dei listini. Abbiamo visto che questa settimana che sta per concludersi per i mercati internazionali è stata più stabile forse di quanto si era previsto. Questo non vuol dire però che l'ISIS non resti un'incognita e che oltre all'ISIS non ce ne siano anche altre. Sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo la lettera al risparmiatore. Come ogni domenica, Vittorio Carlini questa settimana si concentra su Banca Generali, trovate tutto a pagina 22. Ma poi la cronaca politica del nostro paese, perché oggi è previsto un Consiglio dei Ministri e si approverà il piano salva banche. Pronti i fondi per 3,54 miliardi. Un approfondimento, due gli approfondimenti, uno di Alessandro Plateroti, vice direttore del Sole 24 Ore, giri di valzer sull'aiuto di Stato, che si concentra appunto sul fatto che le banche italiane abbiano rifiutato rispetto ad altri paesi gli aiuti di Stato, e poi l'analisi di Rossella Bocciarelli, una soluzione di sistema. Cominciano entrambe sulla copertina del Sole 24 Ore, le trovate poi quella di Alessandro Plateroti a pagina 2, quella di Rossella Bocciarelli a pagina 3. La prima pagina del Corriere della Sera si concentra invece, come dicevamo, come del resto la maggior parte dei giornali, sull'allarme a Bruxelles. Bruxelles chiude, due le fotonotizie, una di un matrimonio celebrato a Bruxelles con però molto significativamente la coppia, tra l'altro sotto un grande ombrello perché pioveva a Bruxelles, ma la coppia è come scortata da due militari perché il matrimonio appunto si è svolto sotto scorta. E poi una foto scattata ieri a Roma dalla manifestazione dei musulmani scandita dall'hashtag Not in my name, la storia raccontata da Paolo Conti è quello dell'imam Sami Salem che è andato in piazza con le figlie tutte nate in Italia, e vediamo la loro foto. Il titolo però molto significativo, e altri giornali lo sottolineano con ancora maggiore enfasi, l'imam con le figlie ma pochi in piazza. Erano infatti poche centinaia di persone in piazza, poche centinaia di musulmani in piazza, quando sappiamo che in realtà nella sola Roma sono molti, ma molti, ma molti di più. Quindi un po' una delusione, perché sicuramente questo è il senso anche del pezzo di Paolo Conti, gli intenti erano ottimi, ma poi appunto le persone in piazza poche. Il titolo della Repubblica, Bruxelles incubo terroristi, qui una fotonotizia di una strada di Bruxelles con due persone che passeggiano, però in primo piano c'è un militare con un fucile di traverso sul petto e anche incappucciato con una tuta mimetica che dà proprio l'idea di una città sotto assedio. Anche qui moltissime le analisi, vi segnalo in particolare un'inchiesta di Carlo Bonini, Giuliano Foschini e Fabio Tonacci che da Bruxelles cercano di raccontare tutto quello che è emerso sui passaggi dei terroristi dalla Francia in particolare al Belgio. I siriani 10 giorni nel nostro paese, emerge infatti che i terroristi che arrivavano dalla Siria sono stati anche nel nostro paese. E poi Andrea Bonanni, che è il corrispondente di Repubblica da Bruxelles, il mondo di sotto della capitale UE, e qui racconta appunto un po' la Bruxelles che non conosciamo, perché forse Bruxelles noi la identifichiamo solo ed unicamente come la capitale europea, la sede della maggior parte delle istituzioni europee, ma poi non la conosciamo davvero, e Andrea Bonanni ci aiuta appunto, ce la racconta in questo pezzo. Il Messaggero a tutta pagina, il cuore d'Europa chiuso per ISIS, fa la fotonotizia anche in questo caso, è dalla manifestazione di ieri a Roma. Musulmani in piazza contro la jihad, anche col velo non siamo il nemico, questo è il virgolettato scelto. E poi in prima pagina anche altri giornali lo raccontano, ma appunto il Messaggero mette la notizia in prima pagina e poi la trovate approfondita a pagina 18. La notizia che Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, che sta per diventare papà, ha annunciato che prenderà un congedo di paternità di 2 mesi, che è la metà di quello che l'azienda concede. Lui comunque 2 mesi se li prende. La Stampa, la paura nel cuore dell'Europa, un titolo molto simile a quello del Messaggero. Anche qui la fotonotizia dalla manifestazione di ieri a Roma, e l'editoriale di Gianni Riotta: pochi in piazza ma servono. E poi una notizia che ho trovato solo sulla Stampa, che riguarda moltissimi di noi, ed è quella sul Telepass, perché le autostrade hanno annunciato a tutti gli abbonati Telepass, con facoltà naturalmente possono fare questo, è una decisione unilaterale prevista dal contratto, che il Telepass raddoppierà il canone. È una novità per il 2016, la promessa è che ci saranno, a fronte di questo raddoppio del canone, anche nuovi servizi, per esempio che l'estensione del servizio di soccorso verrà fatta su tutta la rete stradale e non solo sulle autostrade come avveniva fino adesso, però intanto c'è il raddoppio del canone. L'Avvenire titola anche qui sulla L'Avvenire è l'unico che titola solo ed esclusivamente su questo, cioè sulla manifestazione di Roma, con queste parole: c'è un Islam che dice no, in piazza contro il terrorismo, opponiamoci a questo cancro, uno dei tanti delle tante frasi sentite ieri. La fotonotizia però è dedicata a Bruxelles, anche qui la foto è non di una strada ma di una piazza, sullo sfondo questi bellissimi palazzi di Bruxelles, perché Bruxelles è una città con dal fascino enorme. Qui per esempio sono questi quattro palazzi quasi con delle facciate tra il Liberty e il Gotico, potremmo dire, qualche architetto storcerà il naso, però è per darvi l'idea appunto di questa architettura molto interessante di Bruxelles. Il titolo: allarme attentato, Bruxelles sbarrata per un giorno. E poi un interessante approfondimento, visto che comunque di immigrazione continuiamo a parlare, giustamente, un approfondimento che viene dai Balcani: confini chiusi, una trappola per i migranti. Sempre più difficile la situazione per migliaia di stranieri bloccati alla diaccio lungo la rotta balcanica a causa delle restrizioni imposte da Macedonia, Serbia, Croazia e Slovenia, che dopo gli attacchi di Parigi stanno respingendo i migranti economici. Pensate appunto cosa vuol dire adesso che è arrivata la stagione fredda aspettare davanti a una frontiera chiusa o addirittura essere respinti e quindi affrontare un viaggio di ritorno, o comunque aspettare, perché poi molti scelgono, come si faceva in estate, di fare resistenza finché si veda uno spiraglio per entrare, per passare le frontiere e lasciarsi alle spalle appunto le realtà da cui si scappa. E però pensate cosa vuol dire fare questo al freddo, con temperature che all'est tra l'altro sono già scese sotto zero. Libero: gli islamici chiedono più moschee, ironicamente l'occhiello, la ricetta anti-ISIS, scrive Libero, manifestano contro il terrorismo, per batterlo pretendono che si aprano nuovi luoghi di culto. In piazza nessuno si sente italiano, l'inno di Mameli viene cancellato dal programma. E l'editoriale di Maurizio Belpietro: per farci stare tranquilli, Renzi non può limitarsi a pregarci di stare sereni. Il Giornale: ecco l'Islam moderato, 1000 persone, come vi dicevo appunto su questa scarsa partecipazione alla manifestazione di Roma è stata data diversa enfasi dai vari giornali, tutti l'hanno registrata, ma appunto il Giornale titola su questo: piazze semivuote e metà dei manifestanti sono italiani, slogan contro l'ISIS ma anche contro gli Stati Uniti e la guerra. E il capo degli islamici lombardi parla dei kamikaze come di giovani che si sono sacrificati sbagliando. L'Unità, la notte dell'Europa, qui la foto è di una bambina musulmana che tiene in mano un cartello con l'hashtag Not in my name, e un approfondimento anche su quello che c'è stato ieri, lo vedremo anche su altri giornali, la Venaria vicino a Torino, dove c'è stato questo Digital Day con tutte i programmi del governo, i piani del governo per la digitalizzazione dell'Italia. L'economia dell'innovazione, la grande occasione dell'Italia. L'articolo di Paolo Barberis, Rinascimento digitale. Il Manifesto titola Senza paura, e la foto è quella delle 2 manifestazioni di Roma. Le piazze sono diverse ma gli obiettivi sono comuni: lavoratori della FIOM e musulmani manifestano contro il terrorismo e la guerra, per il lavoro e i diritti sociali. In una capitale sempre più al centro degli allarmi, veri e fasulli, la paura c'è ma non ferma la partecipazione popolare. E poi un'ultima notizia che ho trovato solo sul Manifesto, un aggiornamento dalla Grecia, dove Tsipras sta sempre cercando di compattare il governo e il Parlamento intorno alle riforme durissime che deve fare, il titolo Tsipras perde pezzi, no alle larghe intese. Trovate questo approfondimento a pagina 6. Ma ora ci lasciamo un attimo anche per il meteo. In primo piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Abbiamo visto le prime pagine dei giornali, quasi tutte hanno un titolo che riguarda Bruxelles, capitale del Belgio e anche la capitale dell'Europa, se vogliamo, ieri blindata. E poi abbiamo citato alcune inchieste, in particolare quella del Sole 24 Ore di Claudio Gatti, che trovate le pagine 2 e 3, che riguarda in realtà l'affare gigantesco dei migranti e che però, come scrive Claudio Gatti, è un affare da 3 miliardi che finanzia anche il terrorismo. E appunto a pagina 2-3 con dati, mappe, e vi dico soltanto tre dati che riguardano appunto i flussi migratori: 1 milione le persone che arriveranno in Europa nel 2015, 1,5 i migranti attesi per l'anno prossimo e sono 3,5 gli afghani rifugiati in Iran e in Pakistan, per far capire come appunto, certo, noi ci occupiamo soprattutto dei flussi migratori verso l'Europa, ma ci sono tantissimi flussi migratori. Trovate la mappa molto chiara a pagina 3 del Sole 24 Ore. Però abbiamo detto anche che oggi c'è un Consiglio dei Ministri, verrà approvato il decreto salvabanche, ma soprattutto c'è questa manovra finanziaria che finalmente ha preso forma. E allora alle pagine 10, 11 e 12 del Sole 24 Ore trovate i principali provvedimenti di questa manovra, divisi per quelli che riguardano le imprese a pagina 10, quelli che riguardano i professionisti a pagina 11 e quelle che riguardano la famiglia a pagina 12. I titoli principali, ma poi sono veramente, ci sono 6 schede per ogni pagina, quindi molti gli argomenti che trovate. Poi ci sono anche tanti approfondimenti sul sito del Sole 24 Ore. Comunque, per le imprese, riassumendo, super ammortamenti, fisco zero sul welfare, per i professionisti gli studi ammessi alle gare dei fondi dell'Unione Europea, e per la famiglia confermato lo stop alla TASI sulla prima casa. Vediamo la prima pagina di Finanza e Mercati, perché qui c'è un articolo interessantissimo, secondo me. Abbiamo parlato di banche, del decreto salvabanche che verrà approvato oggi. Fabio Pavesi ci racconta come le inchieste sulle banche, che sapete ne hanno fatte un po' di tutti i colori, dalle truffe sui tassi, il famoso Libor, a tutte le crisi finanziarie, le truffe finanziarie in cui sono coinvolte più o meno direttamente, ecco, queste inchieste costano 220 miliardi di dollari, ce lo racconta appunto Fabio Pavesi. La crisi della finanza costa di soli avvocati quanto una Grecia. Le grandi banche d'affari hanno accantonato in bilancio tra 2008 e 2014 una somma pari al PIL di Atene. Dalle pagine interne del Corriere della Sera, ma trovate questo anche su altri giornali perché è stato un incontro appunto di ieri, Goffredo Buccini ci racconta il progetto di Renzo Piano, che aveva raccontato molto in profondità anche il Sole 24 Ore quando era stato lanciato, il progetto di Piano per le periferie. Renzo Piano, sapete, è senatore, ha un ufficio che si chiama G124, che è il numero della stanza di Renzo Piano a Palazzo Giustiniani, appunto all'interno del Senato. E in questa stanza lui ha riunito nel corso dei mesi un gruppo di architetti che si sta occupando di quello che l'architetto che Piano ha definito rammendo urbano delle periferie di Catania, Torino e Roma, e che adesso come ultimissimo progetto ha quello del Giambellino, che è una delle zone di periferia di Milano. E il colloquio con Goffredo Buccini è intitolato Io figlio di periferia dico basta denigrarla, non è il male. Su Parigi, perché sappiamo quale ruolo hanno le banlieue, cioè alcune delle periferie di Parigi dove molti dei giovani sono musulmani, quindi si è parlato molto anche del degrado delle periferie urbane come possibile vivaio per l'estremismo musulmano, e quindi su Parigi Piano dice una tragedia troppo grande, occorre il silenzio, e però ribadisce appunto che sta lavorando su altri progetti e che presto mostrerà al Presidente della Repubblica Mattarella il progetto per il Giambellino di Milano. Poi un'intervista che non so se definire interessante, comunque occupa una pagina intera, la 17 del Corriere, di Aldo Cazzullo a Antonio Campo Dall'Orto, che dice della RAI, naturalmente, una pagina intera, ma vi assicuro che non c'è una sola risposta concreta. Cioè sì, si parla, Cazzullo cerca di incalzarlo facendogli molte domande, anche su, per esempio, sulla famosa unificazione delle newsroom per avere meno telegiornali, o magari un telegiornale o dei telegiornali differenziati, ma non si riescono, ripeto, a avere delle, non sono riuscita a trovare una risposta da leggervi, una domanda, una risposta da leggervi che fosse davvero una risposta. Comunque il titolo è manager, direttori, programmi, così voglio cambiare la RAI, ma vi assicuro che non è chiarissimo come la voglia cambiare. Sì, dice per esempio troppi talk show la stessa sera, e su quello che riguarda lo scandalo Tangenti che ha colpito la RAI, perché sapete che si parla di 38 milioni di fondi neri, 37 dossier interni sequestrati alla magistratura, la risposta è no, ma sarà un'occasione per diffondere la legalità. Poi elogia alcuni programmi, non ne critica praticamente nessuno. Quindi comunque insomma un bel esercizio di dire tanto senza, secondo me, dire niente. Un'altra intervista interessante, perché anche qui è la cronaca che incalza, ed è un'intervista ad Antonio Bassolino di Concita Sannino, la trovate a pagina 21 su Repubblica. Questa candidatura di Bassolino a sindaco di Napoli, sapete, il PD è in crisi a Napoli perché non ha di fatto un candidato, e allora è rispuntato Bassolino imbarazzando, così si dice, il PD campano, e il titolo di questa intervista è: io vado avanti comunque, saranno i napoletani a decidere chi è nuovo e chi è vecchio. Sul Messaggero, naturalmente molti approfondimenti sulla manifestazione di ieri di Roma, ho trovato anche un grafico, i numeri che come sempre ci aiutano a fare un reality check, a vedere veramente di che cosa parliamo quando parliamo di musulmani in Italia e nell'Unione Europea. C'è questo, appunto, questo focus che si intitola "In Italia i musulmani moderati lanciano la sfida agli estremisti", e poi uno schema che ci spiega come nel 90 i musulmani fossero il 4% della popolazione europea, sono il 6% nel 2015, si stima che saranno l'8% nel 2030, quindi se le stime sono corrette non sono numeri enormi. La presenza nei principali paesi nel 2010, qui il dato è un po' vecchio, effettivamente parla di 4,8 milioni in Germania, 4,7 in Francia, 3 in Gran Bretagna e 2,2 in Italia. L'età media dei musulmani è di 32, dei cristiani di 42, degli atei 37, quindi anche qui non ci sono grandissime differenze. Ripeto, però, questi ultimi dati che vi ho citato sono un po' vecchi. Un altro approfondimento sempre sulle questioni legate ai terrori, agli attentati, la trovate sul Messaggero a pagina 10. Il turismo paga già il conto, viaggi cancellati e disdette. A pochi giorni dal Giubileo e dal Ponte dell'Immacolata, prenotazioni a rilento. Evitate le capitali europee e le grandi città. Resistono invece Caraibi, Asia e America Latina. Un altro approfondimento sulla Stampa molto interessante, di Maurizio Molinari, corrispondente da Gerusalemme. Chi è davvero al fianco dell'ISIS? Ecco tutte le accuse incrociate, ne avete sentito parlare tantissimo anche qui a Radio 24. Chi sono veramente gli stati, i paesi o i gruppi di interesse che finanziano, o magari addirittura come abbiamo visto, i traffici illegali che finanziano l'ISIS? Per esempio il premier turco Erdogan sostiene che sarebbe lo stesso Assad, il presidente Assad della Siria, a finanziare i jihadisti. Mosca chiama in causa turchi e sauditi, Israele incolpa l'Iran, e trovate questa mappa a pagina 8 della Stampa. Sempre sulla Stampa seguiamo questa serie di incontri che fa il nostro Federico Tatia, dico nostro perché gli ascoltatori di Radio 24 lo conoscono bene, un viaggio attraverso le eccellenze artigianali in Italia, e oggi si occupa dei fratelli Giulio e Giuseppe Pascucci che stampano sui tessuti, stampano a mano, stampano qualsiasi cosa, persino poesie, parole. Pascucci, fratelli che imprimono le visioni dei poeti sui tessuti, oggi come nel 1826, Mazzuolo, Aceto e Segreti nella bottega della Stampa a mano. Dall'Avvenire un approfondimento, come spesso dico, l'Avvenire ha il merito davvero di non dimenticare le crisi che magari, di cui gli altri giornali o i media in generale si occupano solo quando scoppiano e poi non le seguono più. In questo caso il terremoto che aveva colpito ha colpito il Nepal e il Pakistan, e resta l'emergenza, l'assistenza della Caritas per 1200 famiglie a un mese dal dramma che ha colpito anche l'Afghanistan. Nell'area dell'Himalayana la ricostruzione, pensate, non è nemmeno partita. A proposito di clima, l'emergenza clima, ovviamente se ne parla spesso, ma soprattutto nonostante tutto quello che è successo a Parigi, forse a maggior ragione, visto che diciamo tutti che dobbiamo dare dei segnali per mostrare che la vita continua, i terroristi non possono interrompere la vita normale delle persone e quello che è stato programmato nelle città, sia delle persone che dalle istituzioni, ecco allora che l'Unità dedica due pagine al vertice sull'ambiente che ci sarà dal 30 novembre all'11 dicembre, proprio la conferenza sul clima, dove sono attesi tutti i leader del mondo, i big del mondo a Parigi per salvare l'ambiente, lo trovate sull'Unità. A proposito di giubileo, abbiamo detto appunto in vista del giubileo, il Fatto Quotidiano si occupa della legge che per ora non c'è, perché non è ancora stato, c'è un governo approvato, un decreto approvato dal governo venerdì 13 novembre, ma in realtà non esiste e quindi mancano di fatto i soldi per finanziare i lavori che in qualche modo sono stati avviati, ma che appunto avevano bisogno di fondi che erano stati promessi. E poi un interessante reportage da Gardone nel Bresciano di Ferruccio Sansa, la valle dei fucili tra Lega e migranti, il paese che arma mezzo mondo, con alcune cifre: 6,7 miliardi il valore totale dell'export delle armi in Italia, 2,5 miliardi il giro d'affari dell'export italiani di armi nei paesi islamici, 40% la percentuale del mercato verso i paesi islamici. Ci lasciamo un attimo per la pausa sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Siamo insieme per l'ultima parte della rassegna, la dedichiamo ai supplementi della domenica e cominciamo quindi da quello del Sole 24 Ore, la domenica del Sole 24 Ore, e come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che si intitola Baobab e parte da un aforisma del Sudan, che è questo: verità, saggezza e conoscenza sono come il tronco di un baobab, le braccia di una sola persona non sono in grado di stringerle insieme. Il Ghana è uno stato dell'Africa occidentale, scrive Gianfranco Ravasi, segnato negli anni dalla sua autonomia da vicende complesse e spesso tormentate. È però erede di fiorenti civiltà indigene, tra le quali domina quella sudanese degli Akan. È alla loro sapienza popolare che dobbiamo l'aforisma citato. Al centro c'è un albero tropicale imponente, longevo fino a 400 anni, dal diametro di 9 o 10 metri, il Baobab. Proprio per queste sue dimensioni non può essere abbracciato da una persona sola. Così, ammonisce il saggio africano, accade con la conoscenza e la sapienza. Nessuno comincia da zero. È soltanto in tempi smemorati come i nostri che si è convinti di non aver bisogno del passato e della sua gloriosa eredità. Ed è per questo che siamo talmente poveri da non sentire più questo vuoto come una mancanza e siamo così orgogliosi da non ascoltare e imparare più dagli altri con umiltà. E sempre sulla copertina del Sole 24 Ore, della domenica del Sole 24 Ore, il memorandum di Roberto Napoletano, il nostro direttore, nostro del Sole 24 Ore di Radio 24, si intitola La forza della politica è quella di convivere con la nuova fragilità. Napoletano parte da un incontro con Bruno Forte, l'arcivescovo di Chieti Vasto, che spesso interviene sul Sole 24 Ore alla domenica, e da una telefonata, in realtà non un vero e proprio incontro, un incontro telefonico, scrive Roberto Napoletano: Bruno Forte è appena uscito da un recital di giovani della diocesi di Chieti Vasco, di cui è arcivescovo, mi parla di gioia e di normalità, chiude la telefonata come ai bei tempi, prego per te, ma subito aggiunge, fallo anche tu per me, proprio come fa Papa Francesco con tutti, rispondo, le tue preghiere sono più importanti delle mie e io ne ho un gran bisogno. Rifletto su una frase che ha ripetuto tante volte: ricordati, la paura è l'antitesi della libertà, e sento che questa paura non può entrare dentro di me, non ce la farà, perché la libertà è troppo importante e non mi sento di darla vinta al terrorismo della Jihad. La copertina però vera e propria, i pezzi di copertina, sono due brani, due anteprime di due testi di due premi Nobel. Uno è Orhan Pamuk, lo scrittore turco, e Svetlana Alexeyevich. La prima è la prima anticipazione di Orhan Pamuk, la storia turca nel suo ultimo romanzo, e invece la guerra raccontata dalle donne, appunto dalla neo premio Nobel Svetlana Alexeyevich. Candido, venditore di Boza è il turca, naturalmente. Questo sulla copertina della domenica. All'interno trovato una, secondo me, una recensione bellissima di un libro molto interessante per chi ha così passioni per scientifiche, per la divulgazione scientifica in particolare. È la recensione fatta da Gianni Fochi di un libro appena uscito di Mark Miodovnik, La sostanza delle cose, storie incredibili dei materiali meravigliosi di cui è fatto il mondo. Si fa presto a dire plastica, il titolo della recensione. E poi, a proposito ancora di Islam, un intervento di Adonis, il poeta siriano, che in un libro intervista in uscita da Guanda, di cui appunto il Sole 24 Ore anticipa una parte, il poeta siriano sottolinea la continuità della violenza nella storia musulmana fin dalla nascita del primo califfato, tutte le guerre arabo-arabe. Un'altra recensione di un libro, anche questo appena uscito, da Bompiani, che si intitola La musica scorre a Berlino, conversazione con Lidia Bramani, di Claudio Abbado, Memorie di un uomo tenace, il grande direttore d'orchestra scomparso nel 2014, quindi una nuova edizione di questo libro che racconta le passioni di Claudio Abbado, in primis naturalmente quella per la musica. E passiamo alla lettura, il supplemento del Corriere della Sera, la copertina come sempre affidata a un artista, questa settimana è Renata Boero, e poi all'interno, subito alle pagine 2-3, un pezzo che ho trovato molto divertente, che si intitola Contro il critico contemporaneo, di Alessandro Piperno. Gli snob piangono la morte del romanzo, ma i manganelli e i Prats dove sono? Il buon recensore sa di essere un parassita. È un po', insomma, un'autoironia un po' su, beh, Alessandro Piperno è sia scrittore e poi anche a volte si esercita nella critica, però appunto questa idea che poi il recensore è un po' un parassita, non scrive di suo, ma purtroppo a volte si limita a criticare l'opera degli altri. E poi una recensione doppia, due libri sulla gelosia, questo sentimento così pernicioso ma anche così misterioso. Appunto il titolo del pezzo di Giancarlo Di Maggio, Gelosia, può avere risvolti positivi, ma se diventa paranoia sono guai tremendi. E poi un approfondimento di due pagine di Enrico Rotelli sulle passioni di Michael Chabon, il grande romanziere americano, per la musica, perché il romanziere ha collaborato alla realizzazione di un album Uptown Special, dove le note, spiega lui, hanno qualcosa che l'alfabeto, che è quello che usiamo, che usano gli scrittori, non ha. Poi una recensione di Anna Chiara Sacchi di un libro a fumetti di Igort, che è forse uno dei più grandi fumettisti italiani, è stato anche fondatore della casa editrice Coconino Press, che appunto è una delle principali case editrici di fumetti specializzate in fumetti in Italia. Questo ultimo libro di Igort si chiama Quaderni giapponesi, è un reportage da Tokyo. Di fatto Igort era un giapponese, e lo è. I quaderni da Tokyo, l'omaggio a un paese dall'immensa cultura visiva, si intreccia con una radicale curiosità per i luoghi e le persone. E poi anche qui molto divertente un articolo di due pagine di Francesco Piccolo, scrittore, sceneggiatore, che ha visto con il figlio Transformers 4 di 7 anni, e il titolo di questa recensione, di questo racconto, di questa visione col figlio è Liberatemi per favore, spegnete Transformers 4. Mio figlio 7 anni mi ha costretto a vedere finalmente questo film, è un'insensata guerra di camion mostri, non proprio il mio genere, e la pellicola tra l'altro dura 2 ore e mezza. La copertina della Domenica Cult della Repubblica, una bellissima illustrazione di Lorenzo Mattotti, a proposito di fumetti e di illustratori. Lorenzo Mattotti è un grandissimo illustratore, potremmo dire un grandissimo artista, ha anche fatto molti libri a fumetti, qui appunto una sua illustrazione di una ballerina che potremmo immaginare una ballerina francese di Cancan, che solleva la gonna con la sua grande gonna a ruota e sotto di sé i terroristi spaventati. La Marsigliese, storia dell'inno che il mondo intero sta fischiettando, e trovate appunto questa storia con anche un intervento di Nicola Piovani, il compositore, alle pagine 34 e 35 della Repubblica. Sempre all'interno delle pagine domenicali della Repubblica, una lunga intervista di quella serie Straparlando di Antonio Gnoli, con anche qui un ritratto bellissimo in questo caso fatto da Riccardo Mannelli, altro grandissimo illustratore italiano. L'intervista è a Ferruccio Soleri, l'artista che è diventato famoso soprattutto per aver interpretato per decenni l'Arlecchino. Ho vissuto una vita per Arlecchino, è stato il mio amante di tutte le sere. E quindi qui in questa lunga intervista, Ferruccio Soleri, che è nato a Firenze nel 1929, quindi racconta proprio tutta la sua vita di uomo e di artista, artista, la passione per gli acrobati del circo e per il calcio, poi la scoperta del teatro, l'incontro con Strehler e l'inizio dell'amore per le maschere. Sulla copertina di Alias del Manifesto trovate una lunga recensione a un libro di cui tra l'altro ho sentito parlare anche in una trasmissione di Radio 24, La prigione della fede, che è un saggio su Scientology. Fondata nel 1954 a Los Angeles, la chiesa voluta da Ron Hubbard, ex scrittore di fantascienza patito di cinema, divenne subito un'impresa miliardaria, e Lawrence Wright la racconta. C'è stato anche un film di recente, anzi forse addirittura due, un film e un documentario. Il titolo della recensione del Manifesto: Scientology, la grazia del dollaro. E poi dicevo di ieri del Digital Day alla Reggia di Venaria, il macro del Messaggero l'approfondisce con la prima pagina del supplemento: l'Italia a portata di click, 2 anni per digitalizzare il paese, è questa la sfida lanciata ieri dal Digital Day. L'obiettivo è portare in rete referti medici, dichiarazione dei redditi, tasse, ma anche carta d'identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno in un'unica app. Paolo Barberis, consigliere per l'innovazione del governo: migliaia di servizi sono già online ma sono frammentati e poco utilizzati. E poi un approfondimento spunto dal Fatto di Cronaca, il furto dei 17 quadri al Museo di Castelvecchio a Verona, e però ci spiega Fabio Isvan sul Messaggero: questo è solo l'ultimo di una lunga scia. Dalla Gioconda al Giardiniere alcune opere sono state ritrovate, di altre come la celebre Natività di Caravaggio sottratta dalla mafia si sono invece perse le tracce. Un'ultima segnalazione, un'intervista a Fabio Fazio, sempre dal Messaggero, intitolata La mia TV senza politici, annuncia appunto che non avrà più politici, vedremo, cercheremo insomma di fare un reality check su questo. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Paolo Corleoni in regia e ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.